Alessia, ho dimenticato Alessia. Alessia Plecan. Prego. Hai fatto tu. Vai. Come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi prima. Voglio sentire le vostre voci, eh? Nasce così la vita mia, come comincia una poesia. Che lassù c'era un sorriso anche per me, la stessa luce che si accende quando nasce un re. Una stella anima, prima amore biondo mio, con l'orgoglio dei vent'anni, e anzi mai mi dissi addio, e me ne andai.